qui allora è la più vecchia fontana di Nago. Da qui le signore venivano a lavare i panni, ma non solamente, qui venivano anche le mucche a bere. Quindi faceva doppio servizio, sia lavare i panni e bere anche alle bestie, mucche e cavalli. Naturalmente l'acqua veniva da lì, era una fonte che arrivava praticamente dal lago di Lopio, tutto sottoterra, è una sorgente, qui rimaneva tutta piena di acqua e il livello usciva e passava qui di fianco della strada, che adesso l'hanno interrata, quindi c'era il fosso prima, e andava giù nella valle del Mulin e andava fino a Sarca. Perché hanno chiuso adesso? Chiusa prima cosa per un periodo che non c'era più acqua. Si è prosciugato il lago di Lopio, nel 1956 è prosciugato il lago di Lopio e qui l'acqua non è più arrivata. Quindi è cascato tutto il motivo di essere una fontana. È stata abbandonata e adesso il comune stanno ripristinando, hanno fatto una bella cosa, con l'illuminazione di notte, dovrebbero fare anche delle fotografie come era proprio una volta con le lavandaie dentro. Quindi è stato un bel recupero questo qua. Questo fa parte sempre del Pesarol, della piazza del Pesarol. Qui sopra c'è la casa di Scipio Sigale, vecchio irredentista, filosofo, criminologo, era faceva di tutto questo uomo, era molto importante, conosciuto in tutta Europa.